per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua. Musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Dieci e 36 minuti in questo momento per questo venerdì 21 febbraio, un venerdì con la forma dell'acqua che raddoppia e diventa Special Twice, uno Special Twice 4 metri di speaker in due insieme a William Piana e Elisa Iacobucci. Ciao Elisa! Ciao, benvenuti, questi sono i 103.1 di Radio Città Fujiko, oggi in puntata appassionata e speciale per come insomma sapete a noi piace passare da argomenti intensi a quelli più frizzanti e leggeri, ed oggi è proprio una di quelle puntate. Ci piace avvicinarci alla natura e oggi parleremo di una creatura magica, mistica e misteriosa e anche molto molto elegante, quella che Leonardo da Vinci definì il capolavoro della natura. Sì, assolutamente, è un capolavoro a tutti gli effetti. Alcune note per così dire esoteriche oggi dello Special Twice è la 17ª puntata. Questo non è una puntata, non è un caso. È infatti il 17 che appunto è passato da poco, è stata una giornata particolare. Mi è piaciuto anche notare che alcuni ascoltatori di Radio Città Fujiko hanno fatto notare che nessuno ne aveva assolutamente parlato, e allora siamo arrivati noi per creare una playlist anche tutta dedicata al nostro amico gatto. I nostri amici felini in generale, in particolare il felino domestico per eccellenza, il gatto, che è l'animale domestico più diffuso, fra più l'altro. Diffuso, e quindi sappiamo anche il perché, e tra poco ne parleremo, arriveremo proprio alla storia di questo animale e della sua fondamentale importanza storica. Sì, ed è importante anche partecipare al 333 180 9494, partecipare allo Special Twice attraverso a questo codice numerico che attraverso il nostro ricevitore di SMS vi potrà fare interpreti e protagonisti della nostra playlist. In che modo? Beh, visto il successo la volta scorsa. Sì, insomma, ci è piaciuto volervi bene, visto insomma il grande successo, abbiamo chiesto anche oggi di farvi partecipare, ed è possibile, quindi mandate un messaggio al 333 180 9494 e chiedete la vostra dedica per il vostro amico felino. Una canzoncina dedicata al nostro amico gatto o la nostra amica gatta, questo chiaramente dipende, anche se i nostri amici purtroppo a volte in questi appartamenti sono costretti anche a rinunciare a quello che è un loro sfogo sessuale, però insomma purtroppo anziché farli soffrire una giusta cura sanitaria e delle attenzioni particolari ci vogliono. Ma non solo questo sarà allo Special Twice speciale gatti, ci sarà tanto di più legato alle curiosità, legato alla storia, legato a una realtà di compagnia, di affezione, di progresso anche, perché no, di attenzioni che dobbiamo avere per i nostri amici felini e di tutto ciò che è stato il gatto anche nell'arte, a partire dal cinema. Beh, questo non è proprio un gatto, però felino è. Ah, molto felino e molto sensuale. Allora, senti un po'. Ci siamo? Restate con noi, eh? Sì, perché con questo non si scappa, anzi, si resta sui 103.1 di Radio Città Fujiko. La Pantera Rosa, Henry Mancini, The Pink Panther. era Feeling Good, non Feeling Good, appunto il buon felino. Venerdì 21 febbraio arriva così di soppiatto, arriva per farci una sorpresa graditissima qui allo Special Twice, e tra artigli e fusa Elisa Iacobucci e William Piana cercheranno di dargli una playlist e di raccontarvi curiosità, aneddoti, storicità su quello che è probabilmente l'animale più bello del mondo. Assolutamente elegante, assolutamente armonioso, una macchina perfetta, come diceva Leonardo da Vinci. Ma tanti altri personaggi hanno, per così dire, elogiato le grandi doti e la grande sinuosità di questa bellissima creatura. Intanto l'abbiamo elogiato grazie a un film e grazie alla colonna sonora di Henry Mancini, The Pink Panther, anche se The Pink Panther era un diamante. Era un diamante, però insomma tutti ricordiamo anche il cartone animato, sì, che ha creato un'icona per grandi e piccini. Io invece volevo ricordare anche la nostra pagina Facebook, lo Special Twice. Intanto iniziano già ad arrivare i messaggi al nostro 333 180 9494, e c'è già una prima richiesta. È troppo ardito chiedere c'era una volta una gatta di Gino Paoli? Assolutamente no, e arriverà anche molto molto presto. Ma a proposito appunto delle origini del gatto, lo sai che una leggenda lo vuole creato da Dio attraverso uno starnuto di un leone su richiesta di Noè per combattere i topi presenti sull'arca? Appunto, combattere i topi, questo per l'igiene, soprattutto quando non vi erano i furgoncini della derattizzazione, era molto importante. Molto, molto importante. Sì, infatti possiamo già vedere a livello di preistoria che il gatto non è proprio così antico, però insomma almeno sui 50 milioni di anni ce li ha sulle spalle. Ah, però! Mica male. Beh, ovviamente è stato venerato prima di tutto in Egitto intorno al 2000 a.C., perché considerato appunto un ottimo cacciatore di topi, e quando bisognava difendere i magazzini di grano. E infatti secondo me chiama il gatto in realtà questa cosa inconscia già nel DNA. I buoni forchettari. Sì, del resto i gatti sono molto voraci, tra molto l'altro. Voraci. Bisogna stare attenti. Allora, abbiamo ricordato anche un piccolo servizio veterinario, che accettiamo anche, per così dire, i vostri SMS a proposito di consigli, visto che sia io che Elisa abbiamo esperienza diretta. Ah, molto diretta. Anche infatti, se in realtà il mio gatto è stato un gatto strano, perché l'ho quasi cresciuto come un cane, perché avendo il giardino io non ho mai comprato una lettiera per il gatto, perché quando doveva fare i suoi bisognini bussava alla porta, aprivo la porta, usciva, quando aveva fatto mi ribussava e rientrava. Perfetto. Più educato di così, meraviglioso. La possibilità di avere il giardino infatti è importante. Poi vedremo anche le scelte per quanto riguarda la sessualità del gatto, ma soprattutto quello che stavamo dicendo in precedenza è il cibo, l'alimentazione, che deve essere sempre curata, e soprattutto purtroppo bisogna essere un po' spietati, perché se si segue e se si dà retta al gatto diventa 250 kg. E questa anche cosa, se in realtà rispetto al cane, se tu lasci una ciotola piena tutto il giorno, il gatto piano piano va lì, se la mangia quando ha bisogno, però spesso insomma ci sono anche i gatti magnoni che non hanno limiti, sono un po' un pozzo senza fondo. Le mie esattamente sono questa ultima definizione, e una ciotolina di croccantini ti volti è già finita, questo non gli fa esattamente bene. Però fortunatamente, io non credevo, ci sono delle varietà infinite per chi ha problemi di fegato, per chi ha problemi di reni, per chi ha problemi di peso. Ma secondo me è il fatto che il gatto non riesca a staccarsi dalla ciotola è anche dettato dal fatto che creano croccantini che creano una dipendenza all'ennesima potenza. Sicuro. Perché se dai altre cose da mangiare, o anche pezzettini di pesce o cibo che possono mangiare, certo, si riescono a contenere un po' di più. Per me anche a noi umani danno del cibo che crea dipendenza. Ho scoperto che ci sono state anche persone che si sono attaccate al cibo dei gatti, cioè che si mangiano proprio i croccantini. Salutiamo Luca Pavone del Disco d'Oro a tale proposito, sei in ascolto. Lui è un grande amante invece dei cani, e una volta mi confessò: oh, io non ce l'ho fatta, sai che ho mangiato un croccantino. Addirittura. Bene. Sono notizie belle. Sappiate che se ci dite cose del genere potreste essere un po' presi in giro qui allo Special Twice. E non solo, immagino. Ma meno male che c'è la musica che ci accompagna. Però intanto oggi ringraziamo Laura. Ah, ringraziamo Laura, e infatti arriverà molto presto la sua richiesta di Gino Paoli. Ma intanto avviciniamoci alla femminilità, perché il gatto è anche rappresentanza proprio di sinuosità e femminilità. E chi meglio della nostra bella panterona Nina Simone per rappresentare questo grande felino? baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Tone places. Liz Taylor is not his style, and even Lana Turner's smile something he can't see. My baby don't care, who knows it? My baby just che arriva indirizzato ovviamente ai nostri amici felini e a Nina Simone, la grandissima Nina Simone, che sarà anche protagonista di una monografia probabilmente questa domenica alle stanze dalle 19 alle 20 per I Love Radio Live puntata numero 105 e perché no magari anche ripresa dallo Special Twice in futuro. Eh sì, magari qualche biografia in contrapposizione con un bel maschione magari. Sì, sì, con un gattone. Un altro gattone, sì. Perché Nina Simone? Certo, ci sta il paragone con la Panterona, ma hai detto che hai visto un video. Beh, questo video, sì sì, questo video è una specie di cartone di plastilina dove ci sono i gatti. Bellissimo. Che suonano, e c'è un gatto che in realtà è innamorato della cantante, però lo buttano fuori dal locale e c'è un fantastico gatto bodyguard con gli occhialoni da sole che lo guarda tipo dove vuoi andare. Beh, gatti musicisti, ricordiamo gli Aristogatti. Ah, bellissimo film, è una capolavoro. Colonna sonora anche veramente ottima. Eh sì, beh, era tutto jazz. Sì, a noi nel cuore ci sta e quindi va da sé che gli Aristogatti abbiano un'importanza particolare per lo Special Twice. E poi la storia struggente, meravigliosa. Beh, rispetto ai cartoni animati che ci sono adesso, seppure tecnicamente molto molto più avanzati, gli Aristogatti avevano però un significato molto più semplice e struggente. Eh sì, poi così. I disegni, il disegno a mano, si sa che è un'arte un po' più elaborata. Sì, sì, sì, assolutamente. E meno male che il nostro gatto non si è fermato solo all'Egitto, ma ha iniziato a frequentare anche le case di altri paesi, arrivando in India, Persia, fino in Grecia, l'Impero Romano, e quindi si è piano piano sviluppato un po' in tutto il mondo e tutto il mondo l'ha portato proprio come grande baluardo della difesa della propria casa, a partire dai topi che insomma facevano sparire il cibo, quindi mi sembra o lo infettavano. Infatti vedremo poi che nel periodo nero facevano molto male ad associare i gatti alle streghe, infatti le malattie poi galoppavano, che era un piacere. Assolutamente, il percorso storico del gatto, come ben sapete, non è costellato solo di grande successo e di grande venerazione. Ci sono stati anche gli anni bui tremendi del Medioevo, un passettino alla volta, purtroppo dovremo arrivare anche lì. Tra l'altro, oltre che essere abbinato a un'utilità, il gatto veniva anche simbolicamente abbinato alla fecondità. Alla fertilità, c'era appunto la dea che partiva proprio dall'Egitto, infatti bisognava dare del pesce ai gatti terreni, sì, come dono in realtà alla dea della fertilità. Certo, infatti tuttora in Grecia, dove c'è un chiaro rimando alla tradizione egiziana in quanto a divinità, per motivi, vabbè, che magari dopo, se ci sarà tempo, farò sfoggio delle mie conoscenze mitologiche. Sì. Beh, insomma, fatto sta che tuttora nelle isole del Dodecaneso, quando i pescatori rientrano, danno sempre per primo da mangiare ai loro gatti, e questa è una cosa molto bella, se penso che invece qui da noi purtroppo delle volte vengano scacciati. Vabbè, ma diciamo che sicuramente rispetto a una volta adesso sono molto privilegiati i nostri cari amici, diciamo, animali. Diciamo che adesso fortunatamente chi li ama per davvero. Anzi, adesso volte... anche i topi vengono utilizzati come animali domestici, certo, direttamente in gabbietta, ma anche sulle spalle, come fosse un inseparabile proprio. Certo, io direi però di fare contenta e soddisfare la richiesta di Laura, che da casa ha scritto al 333-180-9494 per chiedere un brano bellissimo, canzone italiana per me fra le più belle. Ed ce è l'abbiamo. Appunto, sì, e qui Gino Paoli con C'era una volta una gatta. State con noi, 103.1. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo. Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima, come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. A una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Ed è una grande meraviglia, tornando in diretta. Pensa che Gino Paoli è il mio autore preferito. E poi dicono che a me non piace la musica italiana. Certa musica italiana. Ah, vedi? Allora restate con noi, perché queste sono le scoperte dello Special Twice. Anche a William piace. Gino Paoli, accidenti, non posso certamente essere tacciato in questo caso di un gusto un po', insomma, troppo commerciale. No, perché no, assolutamente. Nonostante grandi successi di vendita, la collaborazione con le più grandi interpreti italiane, insomma, Gino Paoli è stato cantante cantautore, autore, compositore di un certo spessore. Sì, no, infatti non è un caso che tra gli italiani, insomma, ci sia Gino Paoli tra le tue scelte. Ti ringrazio, e questo brano dedicato a Laura, richiesto da Laura, che secondo me lo abbina come colonna sonora a uno dei suoi gatti. Secondo me, quando pensa a "C'era una volta una gatta", secondo me viene in mente una certa Birba, che salutiamo. Salutiamo Birba. Salutiamo Birba, sì. E anche voi, se volete dedicare un brano al vostro amico peloso a quattro zampe, noi vi aspettiamo al 333-180-9494 oppure sulla nostra paginetta Facebook Special Twice. Si diceva della fertilità, della fecondità dei gatti, e appunto, beh, i gatti, se una gatta è, tra virgolette, diciamo, molto attiva, ogni calore ne può anche fare 7-8. Ah, voglia avercene gran calore. Sì, poi diciamo che se abiti appunto in una zona bella intensa di gatti e hai un giardino come nel mio caso, la notte poi è il caos più totale. Tra lotte, miagolii, poi è come se cantano i gatti. Certo, sono dei canterini eccezionali, hanno dei richiami di amore fantastico. E quello che però dobbiamo dire e dobbiamo rivolgere un attimo di attenzione è che, se non abbiamo la possibilità di fargli sfogare questo calore, sarebbe meglio prendere provvedimenti, anzi è doveroso. Sembra una tortura, ma a tutti gli effetti è molto peggio quello che capita dopo, perché se il calore non viene sfogato nelle femmine, succede che avvengono nel sangue alcuni ormoni che, restando lì, provocano bruttissime malattie che li portano a soffrire tragicamente. Sì, ma infatti dicono che sono spesso anche cause dei tumori dei gatti. È quello. Quindi, siccome noi vogliamo bene ai nostri amici felini, il controllo delle nascite è fondamentale, secondo me. Non vuol dire non volergli bene, vuol dire non farli soffrire. Sì, almeno eviti che la loro natura venga soppressa, e quindi poi soffrono in una maniera allucinante, almeno fino a portarli poi alla morte. Allora a questo punto anche se magari prima di castrare, almeno una volta la soddisfazione di fargli provare cosa vuol dire. Sì, poi lì c'è una scuola di pensiero che io non ho ancora capito, se è meglio avere, diciamo così, lo sfogo di un calore oppure portarli subito alla sterilizzazione facendoli restare ignari. Questo non lo so, la cosa più importante è non farli ammalare, secondo me. Poi è chiaro, tipo la mia gatta è stata sterilizzata praticamente subito, e quindi spesso quando arrivavano i gatti maschi in calore, lei diceva: "Ma cos'è che vuoi da me?" No, ma infatti. E quindi erano più zuffe di artigli che volavano che altro, perché dicevano: "Ma c'è qualcosa che non va qui." No, ma infatti, e poi soprattutto l'istinto che rimane, è molto emozionante vederli, perché ad alcune gatte l'istinto resta, e quando praticamente nella parte della schiena vicino alla coda le si va ad accarezzare, hanno l'istinto. Alzano subito il sederino. Accidenti, cosa sta succedendo? Beh, insomma, sono animali fantastici, hanno una sensibilità eccezionale, sono stati ripresi nella musica. Vedo che tu, Elisa, stai leggendo gli SMS, perché ne è arrivato uno. Sì, volevo salutare Greta che ci scrive, ci saluta e dice: "Partecipo con le mie ceramiche feline alla mostra collettiva Arte Gatto Artefatto di Faenza, inaugurata sabato scorso." E salutiamo anche Morena Moretti, partecipe anche lei a questa esposizione. Artefatto Arte Gatto si chiama. Sì. Visto che noi siamo molto attenti anche all'arte, ringraziamo Greta e sicuramente daremo largo spazio anche a questa esposizione. Grazie Greta. Grazie mille. E l'ultimo messaggio: se trovate e mi mettete The Cat dei Peter Criss, il gatto dei Kiss. Va bene, certo. Andiamo un attimo in pubblicità, però quando ritorniamo cercheremo di soddisfare tutte le vostre richieste. Per adesso My Favorite Thing. A tra poco, la voce è quella di Al Jarreau. Sleigh bells, chainsaw with news, white geese not their words. These are a few of my favorite things. They are. Snowflakes that stay on my nose and my little lashes. Silver white winters that melt into spring. Oh, these are the few of my favorite things. When the dawn breaks, when the beast eats, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite fish. Oh, no. this one now. Gene and Paul went up the hill to fetch a pail of water. Gene fell down and broke his crown, and Paul came tumbling over. È grazie a voi che la nostra playlist sta diventando sempre più variegata, sempre più atomica, sempre più energica. Grazie veramente. Noi abbiamo dei gusti ben definiti, ma se voi li arricchite ci fate conoscere a sua volta delle cose nuove e molto belle come questo, bellissimo. Infatti siamo qui con The Cat di Peter Criss, che è appunto il primo batterista dei Kiss, e sì, qui ci siamo all'interno della felinità e della gattolifilità sotto felino. Sì, assolutamente. Ma i Kiss tu te li ricordi o sei troppo giovane? Ma diciamo che me li ricordo soprattutto perché quel trucco che avevano sono rimasti impressi soprattutto. Ma sai che c'era l'elemento famoso del vampiro, che era questo che praticamente aveva sta lingua che gli arrivava fino alla pancia, si può dire. Sono rimasti famosi nell'immaginario collettivo. Sì. Io sono giovane, ovviamente non li conoscevo perché non potevo dei essere... Dei pazzi scatenati, ma hanno regalato anche loro della buona musica. Assolutamente. Anzi, ringraziamo chi ce li ha fatti proporre e a sua volta ha goduto di questa musica, e soprattutto lo ringraziamo per aver partecipato allo Special Twice Feeling Good. In questo caso, caro ascoltatore, se hai un gatto questa canzone è per lui. Ma guarda, lo sai che in realtà i gatti, ovviamente essendo felini, riescono in qualche modo, come sappiamo, a mantenere la loro individualità e quindi la loro indipendenza, però quando vivono in casa ormai, quindi sono stati addomesticati, però hanno questa visione del proprio padrone come un micio più grande, un micio gigante, quindi quando si mettono lì a premere sulla panciotta, in realtà è quello che farebbero alla mamma per avere il latte. Sì, per stimolare il seno della mamma. Quando sono cuccioli capiscono che l'unico modo è appunto questo di, come diciamo noi, fare il pane o fare la pasta. Sì, esatto. In realtà no, stanno diventando fornai, è per stimolare il seno della mamma, la ghiandola mammaria, a fargli uscire il latte. Già voraci da piccolini questi gatti. Sì, sì, sì. Ma sono anche molto dispettosi, come sapete, infatti spesso giocano da quando sono piccoli fino a una certa età, poi iniziano a invecchiare, diventano praticamente solo dei grandormiglioni. Però spesso si appendono alle tende, poi ti tirano giù la terra dei vasi. Sì, fanno di tutto e di più, ma l'esercizio del gioco, come per tutti i felini, è un addestramento alla caccia. Ma infatti, nonostante sia tanto addomesticato nei secoli, è l'unico animale, rispetto invece al cane che non è più legato al lupo come discendenza, i gatti mantengono all'interno del loro DNA questa caccia, questa base della loro attività che è fondamentale. Gli ha portato il sostentamento per anni e quindi è indimenticabile, è una cosa arcaica. Bellissimi vedere quando fanno gli agguati, che si mettono in un angolino, poi improvvisamente zac. Il problema è che la maggior parte delle volte li fanno alle nostre gambe. Però insomma, vabbè, diciamo che è un gioco, anche se lascia il segno. Delle volte dai la mano a un amico o a un'amica e vedi, diciamo, dei segni particolari, dici hai un gatto. Infatti vorrei fare un appello: non limate le unghie dei gatti. Brava, a proposito di consigli veterinari, vai Elisa, questo no, è fondamentale. No, assolutamente, lo so che salvate le vostre tende e i vostri divani, ma in realtà è una sofferenza per questi poveri animali, anzi spesso è consigliabile proprio il tiragraffi, così evitano di distruggere i vostri divani e si sfogano sulla pagliuzza fatta apposta, perché insomma sono fatti proprio per arrampicarsi. Già sono abbastanza buffi perché scivolano con i bombastrelling nelle case di cera, che dici mamma mia, sono diventati ormai più buffi che altro. Però sì, evitate, perché è più un danno che altro. Sì, nell'unghia, nell'estremità fino in fondo arriva una vena, e se non abbiamo una precisione minuziosa nel fare questo si potrebbe rischiare l'emorragia per il nostro amico felino. A parte il dolore, che già è una cosa tragica, il danno che rimane è soprattutto per loro, l'unghia è come per noi un prolungamento naturale del dito, quindi è un motivo di sensibilità per il gatto, è un modo di lasciare il segno, di comunicare, come strusciare la parte anteriore del muso dove ci sono le vibrisse. Da lì escono delle sostanze al nostro olfatto impercettibili, che però danno, per così dire, un'identità, un senso di possessione, di proprietà. Esatto. Se i cani spruzzano in giro per segnare il territorio, i gatti certo, certo, sì, anche il gatto non castrato maschio ha questo sistema di segnare il territorio come tutti i grandi felini. Questa realtà va a finire ovviamente una volta avviata il processo di sterilizzazione, rimane questa sensazione di sfregare le vibrisse, che sono i baffi, o il muso, vicino agli spigoli, vicino alle pareti, vicino ai divani e molto spesso anche vicino a noi. È un gesto di affetto, il significato tradotto in linguaggio umano è: tu sei mio. Ma infatti il gatto si sa che è indipendente, non sei tu il suo padrone, ma è lui che ti concede di essere amico al massimo. Sì, anche questo è un altro aspetto affascinantissimo dei gatti. A proposito di gatti, guarda che bel micetto nero che c'è nella copertina del brano del disco di Jimmy Smith. Incredible! Sì, l'incredibile, come incredibili sono i nostri amici felini. Ci ascoltiamo The Cat. Jimmy Smith, The Incredible, con Lalo Schifrin, un altro grandissimo musicista, anche lui conduttore d'orchestra, insomma di tutto e di più, allo Special Twice per questa nostra 17ª puntata, se escludiamo lo Special Summer che tornerà ovviamente. Tornerà, come se non tornerà. Sì, beh, la nostra stagione preferita, dobbiamo per forza dare una colonna sonora. Diamo una colonna sonora alla forma dell'acqua di questo venerdì dalle 10.30 alle 12.30, facciamo un po' da sponda fra quello che è l'informazione qua sui 103.1 con due ore disincantate per quest'oggi 21 febbraio, saltando di palo in frasca o saltando di ramo in ramo, senza dimenticare, anzi ringraziando tantissimo anche Jagger Master che ha scritto un messaggio molto bello con una richiesta di grande qualità musicale, grazie. Sì, ci scrive: le affinità tra i gatti e la dark wave sono tante, basti pensare al cappello di Robert Smith. E allora, grande richiesta, cioè è appunto The Love Cat, The Cure, che arriveranno molto molto presto. Volevo solo avvisarvi che potete mandare un messaggio anche su WhatsApp tramite il 333 180 9494, e continuano ad arrivare i messaggi, quindi devo avere tempo di leggerli. Allora intanto musica. Ascoltiamoci The Love Cat, The Cure. Sulle note dei Cure con Love Cats, le richieste qui allo Special Twice sui 103.1. Ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, se volete postare, come ci hanno richiesto, le foto del vostro amico gatto, fatelo tranquillamente sulla nostra pagina Facebook. Sì, assolutamente. E intanto che continuano le nostre belle note di sottofondo, ci avviciniamo anche al significato della festa, perché ci siamo scordati praticamente di dire il perché è stato scelto questo giorno. Bravo. Non a caso nasce proprio in Italia nel 1990, grazie a un referendum addirittura indetto proprio dai gattofili nostrani. Il 17 febbraio è la giornata del gatto. Perché? Perché febbraio è è il mese delle streghe, dei gatti, 17 è il numero sfortunato, e anche perché c'è il 7, cioè le 7 vite dei gatti. E quindi tutto torna in maniera un po' esoterica, però l'importante è che si ricordi l'importanza, il fascino, l'eleganza e la potenza di questo animale meraviglioso, che fra l'altro appunto il 17 febbraio corrisponde anche con la 17esima puntata dello Special Twice. Diciamolo. Dai, un po' di felinità anche in noi, oltre che nei nostri ascoltatori e nelle nostre ascoltatrici, che stanno contribuendo fra l'altro a una playlist bellissima, come al solito. Come al solito ci fidiamo di voi. Ma facciamo e facciamo molto bene, perché le richieste sono tante e sono anche di qualità eccelsa. Sì, come sono di qualità e eccelsa tutte le varietà dei gatti, perché ovviamente noi conosciamo, diciamo, quello europeo, persiano, siamese, e già ci sembrano esotici, ma ce n'è una quantità infinita. Pensa che io ho dei volumi a casa, perché sono un appassionato, ho tre gatti, quindi la vita per me è molto spesso abbinata alla vita dei felini che vivono sempre al mio fianco, e non solo al fianco ma anche sulle mani mentre soprattutto sulle mani mentre scrivo sui quaderni. Infatti in questo momento io sono davanti al PC e sicuramente se ci fosse un gatto sarebbe proprio davanti allo schermo. Esattamente, nel senso proprio di dire: oh, io ho importanza, e non fare qualcos'altro che prima arrivo io. Protagonismo nel senso assoluto. Allora, dicevamo, le razze, per così dire, o gli incroci o le varietà feline sono veramente tante. A me piace tantissimo anche quel gatto che tutti dicono: ma no, sarà simpatico, sarà particolare, ma come fa a piacerti? Lo Sphinx, il gatto della Sfinge, quello pelato. Ah, addirittura. Per me è bellissimo. Sai che, tra l'altro, ho letto un sacco di roba a tale proposito, perché appunto ho questa mia mania. È il più affettuoso. Ah sì? Cioè è simile. Ma è quello, dici, senza pelo, praticamente. Confesso, è mostruoso. È senza pelo, cioè il bello del gatto. È delicatissimo. È tra molto delicato, non avendo bisogna assolutamente, copertura. Sì, spalmargli degli oli speciali, medicinali, perché appunto la pelle, quando non può avere le secrezioni adatte per mantenersi idratata, deve, per così dire, essere aiutata costantemente, quotidianamente, a, permettetemi il termine, una manutenzione assolutamente impegnativa. Ah, come quindi no, una condivisione. Cioè, è il gatto non gatto, perché di solito chi prende il gatto è proprio perché sa che non ha bisogno della passeggiata come il cane, è abbastanza autonomo, quindi se prendi quel gatto è come avere un altro figlio. Sì, quello è un gatto molto delicato, però ti cambia, almeno da quello che io ho letto, con un affetto straordinario, ti segue come il cane, è un gran chiacchierone tra l'altro, sì, miagola spesso in maniera affettuosa, l'effusa, e soprattutto se hai già un altro gatto diventa un ottimo amico subito. Insomma, a dispetto di un aspetto un po' particolare, non certo esteticamente una bellezza, abbiamo però un carattere adorabile. Ah, vedi che bello. Invece a me sembra molto buffo il gatto cinese, che ha questa faccia larghissima, questi occhi a palla, tutto schiacciato. Infatti sappiamo come i cinesi amino il gatto pieno di statuine con sta zampetta che va avanti e indietro. Non so se di augurio. È cinese o giapponese? Cinese. Cinese. Sì, è portafortuna. Portafortuna, tutti questi gatti che salutano. Sì, hanno la zampetta e dicono che con la zampetta messa in quel modo li porti fortuna. Beh, di tradizioni ce ne sono mille. Tradizioni anche da parte di personaggi importantissimi, fra l'altro. Altro che importantissimi, divini addirittura. Divini, assolutamente, sì, sì. Ne parleremo tra pochissimo, ma intanto godiamoci la nostra cara playlist. Sì, sai chi ti propongo adesso, cara Elisa? Chi mi propone? Una cantante che si chiama Chen Marshall, in origine come nome ovviamente di anagrafe, è di Atlanta, in Georgia, ma in realtà, come molti gatti, lei ha un sangue misto, perché arriva da tante tante parti del mondo la sua origine, in realtà, e ovviamente il suo nome d'arte, anche in virtù di questo, è Cat Power. Ci ascoltiamo 369. Restate con noi, dopo la pubblicità torniamo, ne abbiamo ancora tanto da dire. I feel Lucifer, get everything. contenuto, un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione sottolomato, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto. Indifeso ma per gioco, dolce, caro, sempre amico, un poeta ma per poco, giusto per un platonico ricatto, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto. Giovane mio amore, quanto ingenua non lo so, ti vorrei avvisare, ma far questo non si può, paternalista a questo punto non divento, no, potresti ridere. Tu disturbi, vuoi scherzare, è un grandissimo piacere, puoi unirti a noi a mangiare, un intruso, ma chi l'ha mai detto? Maledetto di un gatto, maledetto di un gatto. Abbiamo tempo per star soli, solo un whisky forza sali, ma tutt'altro ci consoli, bravo è vero, andarsene è brutto, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto. Giovane mio amore, quanto ingenua non lo so, ti vorrei avvisare, ma far questo non si può, paternalista a questo punto non divento, no, potresti ridere. Quindi maledetto gatto, tu continua a farle fusa, se per caso lei è confusa, riuscirai a mangiarmi nel piatto, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto. E questi erano i maledetti gattacci di Lucio Battisti. Siamo sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Questo è il Feeling Good. Oggi una puntata tutta dedicata al nostro amico felino. Eh sì, fino adesso abbiamo praticamente sbrodolato della bellezza di quanto sia bello il gatto, ma Lucio ci ricorda che a volte è anche bello e maledetto, come il nostro caro amico che ci sta scrivendo al 333-180-9494. E il nostro Michael ci scrive: quei malefici, dovreste sentirli come scorrazzano sul tetto sopra il mio letto ora che sono nel periodo dell'amore. Che corse, per non dire dei canti che mi svegliano alle 5 del mattino. Ma come fare a meno della loro ruffianaggine, della loro compagnia? Se mi date una bella botte, no, se mi date una mail, vi mando qualche foto dei briganti che invadono il mio cortile. Beh, quale meglio del nostro Special Twice per invadere la bacheca dei vostri amici felini? Sì, la pagina Facebook dello Special Twice, oltre agli sms 333-180-9494, 17esima puntata. Io ringrazio anche questa ragazza che ha un nome particolarissimo, si chiama Prisca Mitia Ileana Pizia e quindi ha un nome assolutamente mitologico, assolutamente legato ai classici grechi. Cioè, nella mia cultura. Beh, sì. Quindi, nella mia cultura qua si vede che sta proprio veramente, vi sto donando perle a profusione, la pitonessa, la Pitia, la quindi Pitia. Il grande oracolo che prevedeva il futuro. Beh, del resto hanno sempre di fianco un gatto, tutte le grandi pattucchiere. Sì. E infatti dovremo poi arrivare al periodo nero dei gatti, dove vennero in qualche modo banditi, quasi scomparvero dal pianeta. Infatti poi i topi ballavano quando visto non c'è che il gatto non c'è, però peccato che poi le malattie sono iniziate a diffondersi creando appunto un pesti, stragi davvero intere, pensando che fosse colpa del gatto perché le stavano uccidendo. Ma c'è qualcosa che non infatti la situazione fu veramente allarmante, non solamente dal punto di vista culturale, perché gli anni bui appunto del Medioevo, dove la reazione, non il progresso, la reazione in questo caso della Chiesa di allora, riportò indietro alla preistoria piuttosto che avere un progresso. E come si fa? Come facevano, ma anche tuttora, alcune culture quando riescono a impadronirsi di una realtà, di un territorio o di una precedente civiltà? Tutti i simboli sacri e tutte le cose importanti della realtà precedente devono essere umiliati, distrutti, messi in condizione di essere ritenuti repellenti. E quindi il gatto, che grazie alla dea Bastet, che grazie a tutte le idee di fecondità, di calore, di fertilità, morbidezza e tante altre realtà e peculiarità al quale venivano assegnate a questa splendida creatura, no, assolutamente non bisogna più considerare questo animale sacro al pagano, anzi bisogna distruggerlo. E furono fatti stragi. Infatti insieme alle streghe, al rogo, venivano messi anche gatti, addirittura proprio sacchi interi pieni di gatti bruciati, come se fosse qualsiasi altra cosa così spregevole. A Bologna c'è una, ancora in curia, c'è una condanna a morte per un gatto addirittura, che se la starà ridendo beatamente sul ponte dell'arcobaleno, perché ormai ci avrà pensato la natura se non sono riusciti a prenderlo. Ma infatti loro, se hanno sette vite, ovviamente nel momento in cui li mette a rogo mi sa che fa un po' fatica a mantenere queste sette poveri vite. Animali, ma si sono vendicati perché appunto dopo le pesti, le malattie, le infezioni, senza la presenza di questi spazzini che facevano la guardia ai granai e alle dispense, purtroppo pensa che il felino quasi estinto, ma la popolazione di tutta Europa anche più di un terzo. Infatti secondo me un giorno si sono svegliati, si sono guardati intorno e hanno detto: siamo rimasti in quattro gatti, a questo punto visto che sono tutti topi magari è il caso di ripopolarli. Ma meno male che, oltre insomma alla popolazione che si rese conto dell'atrocità che aveva fatto, anche tanti poeti, pittori, musicisti e scrittori ne rivalutarono l'importanza, e quindi diventò un po' anche una musa ispiratrice, a partire da Baudelaire, Balzac, Victor Hugo, Pablo Neruda, fino anche a grandi artisti, Pablo Picasso. Quindi anche nella pittura veniva inserito proprio come personaggio principale di affettuosità e di eleganza. Sì, anche Lenin era un grande allevatore di gatti, e nella sua dacia in Campania teneva sempre principalmente la sua gattina Miuzza sempre con sé. Non solamente quella, perché si narra che il grande rivoluzionario sovietico avesse una grande passione per i gatti, ma come dicevamo, tanti personaggi della storia, tanti personaggi dell'arte sono legati a questo felino. Beh, direi anche, giustamente l'hai nominato Dalì. Sì, infatti ho anche pubblicato una foto sulla nostra pagina, bellissima, di un fotografo che giocava molto con gli obiettivi e con le sperimentazioni, altro che Photoshop, e si vede proprio Dalì che disegna con questi spruzzi, questi gatti che volano. Fantastica. Una tradizione che si perde appunto nell'antichità, e a proposito di antichità, ma quanto mai attuale, guarda un po', abbiamo questa Betty Wright, che spesso è paragonata a una vecchia leonessa. Ma vedi, che vecchia leonessa poi alla fine non è, anche se ci canta Old Song, ma The Old Song quando serve. Forse sono anche meglio delle New Song. Betty Wright, Old Song. Oh, just sample. But I'm telling you, you gamble. You ain't even writing one strong song. You ain't even writing nothing to hold on. Late at night, you wanna watch TV. Lean back and play a little Stevie. Play the music, then you'll know. Per i vecchi groove che non devono essere assolutamente dimenticati, e beh, come dimenticarli grazie alla voce di Betty Wright che ci accompagna per questo rientro in diretta alle 11:46 minuti per questa 17ª puntata dello Special Twice in ricordo al 17 febbraio, giornata del gatto, tutti i brani dedicati con qualche riferimento e tante storie. Ne abbiamo appena attraversata una triste, però Elisa, possiamo assolutamente dire che al gatto in generale in Oriente è andata un po' meglio. A voglia. Visto che ci sono statuette che salutano in continuazione con questa zampina anche sì, un po' irritante. Ma anche nel vicino Oriente, perché in Arabia, grazie all'Islam, è stato, diciamo così, quasi nuovamente venerato, perché il profeta aveva una grande passione. Addirittura seduto sul divano per non far alzare il proprio gatto, si dice che tagliò il proprio mantello per evitare di scomodare il suo amico felino. Addirittura sì, pensiamo. È quasi willesca questa cosa. Sì, ma infatti mi sa che se ognuno di noi avesse dovuto tagliare una parte di vestito per non svegliare il proprio gatto, cioè a quest'ora saremmo tutti in giro a brandelli con vestiti bucati, molto stile tardo. Comunque Maometto in certe rappresentazioni è così, proprio... sì sì, evidentemente aveva un sacco di gatti, ho detto vabbè taglia qui, taglia lì, andare in giro mezzo nudo. No, però per dire come la mitologia oppure come la tradizione viene rispettata anche dal punto di vista artistico, Maometto a volte viene proprio rappresentato in questo modo. Il cane invece è ritenuto di mal augurio perché appunto nella tradizione Maometto avvicinandosi a un cane venne morso. Ah, vedi, infatti si dice appunto una volta cane che infedele. Tra... Cagnascio. Sì, se cane infedele. Tra come... imperatori cinesi ci si regalava un gatto, perché allora ai tempi non era proprio facile trovarli in quelle zone, quindi era un buon augurio anche regalare direttamente del pesce per simboleggiare. Ah, poi okay, se avessi un gatto, intanto ti do il pesce. Intanto poi... ti do il mangiare e poi dopo vediamo. Beh, diciamo che in Oriente sicuramente è andato molto meglio ai gatti, ma si stanno prendendo le loro belle rivincite su di noi appassionati anche in queste epoche. Ma è giusto così, l'animale più diffuso, come abbiamo detto, Leonardo lo definì la macchina perfetta, uno scrittore, architetto, poliedrico artista di cui non ricordo il nome, ma che fra poco riuscirà a venirmi in mente, anche perché grazie a Elisa vado a vedere coi mezzi elettronici, quindi non si scappa. Però mi è rimasta in mente la frase: la musica e i gatti sono il rifugio ai guai della vita quotidiana. Ah, beh, ma guarda, è pieno di aforismi dai più grandi, più classici, anche Albert Schweitzer. Ma mi sa che è quello. Dice: esistono due strade soltanto per sfuggire alla miseria umana: suonare l'organo e giocare con i gatti. Ok, è lui. È lui. L'ha detto in un altro modo. Ma anche modo. Nietzsche disse una cosa simile. Che insomma, nella vita, se non si ascolta musica, non si gioca con i gatti, insomma, beh, che senso ha? Beh, cosa ti rimane? Ha ragione perfettamente in questo caso. Sono pienamente d'accordo. E a loro volta i gatti amano la musica. Ad esempio, le mie, ogni mattina bisogna lasciargli un filo di CD un attimo sempre in funzione, perché così, come delle vecchie signore, si mettono lì sul divano tutte in fila ad ascoltare. E infatti, hanno, guarda, i loro gusti. Hanno i loro gusti, ma infatti volevo dirti appunto che gli effetti sulla musica degli animali è ancora un po' un mistero, perché stanno facendo molti studi a riguardo. Però si sa per certo già che tipo le galline producono più uova e le mucche più latte se si mette su della musica classica, e i gatti hanno un orecchio molto molto acuto, riescono appunto addirittura arrivare a 10.000 cicli al secondo di livelli di suono. E sappiamo che se la musica rimane su una costante della loro percezione non dà fastidio, invece alcune note tipo il la, come appunto vedeva uno studioso, ma quando suonava il pianoforte premeva il la, il gattino con la zampina metteva la mano così, in modo da dire no, dai, non farlo questo, taci, mi dà fastidio. Taci. E invece assolutamente non dà fastidio un grande brano che già qui abbiamo in sottofondo. Lo vuoi presentare tu, Elisa? Oh, perché so che lo ami particolarmente. Sì. È The Year of the Cat di Al Stewart. Restate con noi, 103.1. She looks Togliere questo brano, Poi mi ricorda un sacco di cose belle, quindi ogni volta è un piacere ricordarla. Ma tu hai visto il concerto dal vivo? Magari. Ah, ok, diciamo sei un po' troppo giovane, perché hai una passione tale che chissà, forse anche Elisa come i gatti si sdoppia ed è in varie parti. Ti sono mai spariti per casa? I gatti? A me le mie ogni tanto spariscono. Beh, diciamo che si vanno a infilare in alcuni spazi che sono talmente improbabili che dici non può essere lì, quindi la cerchi ovunque, dici boh, alla fine sbuca fuori, ma dove cavolo è? Per me in certi istanti vanno in altre dimensioni che non sono, diciamo così, visibili a noi, perché improvvisamente dopo averlo cercato per ore ti volti ed è lì e ti guarda come per dire dove stai guardando. Sono qua, non sono qua, non mi hai visto. No, non eri qua, scusa, è tuttora che giro per casa, voglio dire, improvvisamente. Ma mi spesso riescono a passare sotto alle porte, questo non è diabolico. Infatti della serie, ma avrai uno struttura ossea, ce l'avrai. Sì, infatti, magici, incredibile, veramente la possibilità di andare in altre dimensioni, io non facendoli uscire, pur avendo una fortuna immensa di una casa che dà la possibilità anche con balconi di restare all'aria aperta, ogni tanto mi ritrovo: ma dove è andata Birba? Ma dove è andata Sofì? Ma vai a vedere un attimo se sono andate in quella sala. Ma non è che li abbiamo chiuse dentro l'armadio? No, no, per carità, guarda, vai a vedere la lavatrice che non ci voglio neanche pensare. E non è lavatrice. Pensa che una volta Sofì, la più snodata, la più, diciamo così, agile, scatta, atletica, è riuscita ad andare in uno spazio largo così tra la parete e la lavatrice perché aveva sentito suonare il campanello e aveva paura che fosse la veterinaria. Addirittura. E quindi è andata lì e avevamo già iniziato. Tu pensa alla mania per il gatto. Eravamo le ricerche, cercasi gatto. Sì. Sì. I volantini. Aveva già cominciato con i volantini. Pensa un po', una mania incredibile e soprattutto una premura e un'attenzione. Ma del resto, secondo me, se decidiamo di vivere assieme a un felino, o meglio dire, se un felino decide di vivere con noi, dobbiamo dare il massimo, ovviamente, per considerarlo né un giocattolo né un soprammobile. E chi ci scrive? A proposito di superpoteri, ci scrivono appunto: i gatti hanno superpoteri, invisibilità, super udito e super vista. Infatti, la cosa più bella vedere quando cercano di fare il loro agguato, che le pupille iniziano a dilatarsi fino all'estensione massima con quel culetto che cercano di puntare. Sculettano quando cominciano a puntare il loro obiettivo. Sì, l'agguato è veramente spettacolare. Grazie per tutti i messaggi che state scrivendo e soprattutto grazie a nome di tutti i gatti che saranno felicissimi di avere tante ascoltatrici e tanti ascoltatori sui 103.1. E ancora un altro messaggio che si dice: io ho quattro gatti, la sabbietta costa ma ne vale la pena. Ne parleremo dopo la

But you know, the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay. E beh, sono gli ultimi 20 minuti assieme con lo Special Twice e lo speciale, con tanti tanti felini che specialmente affettuosi intorno a noi ci stanno facendo compagnia, danzando, ballando, prendendoci in giro. A proposito di prese in giro, questo brano è una filastrocca, fra l'altro. È una vera e propria filastrocca. The Cat Came Back è un brano musicale di Harry Miller che è stato scritto nel 1893 già, ed è entrato praticamente a far parte della tradizione folcloristica anglosassone. È entrata in tante versioni, questa appunto è dedicata ai bambini, infatti si sente infatti. Ditemi miau, tutti i bambini miau. E purtroppo anche questa è un po' gettonata perché è stata utilizzata per uno spot pubblicitario, quindi insomma a forza di sentirla, certo, è diventato un tormentone. Sì, un po' come il Take Five di quello del Sabbione che gira, gira. Mamma mia, oddio, adesso non mescoliamo il Sabbione col Take Five, perché Take Five è tutti i tempi. Ma per fortuna in questo caso, anche se è stato abusato, comunque rimane per carità, è una preghiera intramontabile, secondo me. Sì, eh. E a proposito di cose strane, ci scrive un nostro amico al 333 180 9494, dicendo: ho avuto tanti gatti sin da piccolo, ma non posso fare a meno di chiedermi perché una cultura millenaria come quella cinese ne faccia un uso alimentare. Forse perché mia nonna diceva al gat le proprie bone, al gat le proprie bone. Beh, grazie Vittorio. Vittorio, ma non è un nostro amico, è Vittorio. Ah, è Vittorio. Ciao Vittorio. Vittorione, certo che sei nostro amico, e ha scritto al 333 180 9494. Caro Vittorione, beh, abbiamo origini, diciamo, di una parte ben precisa geografica, chi più chi meno, che a tempo di guerra inevitabilmente purtroppo ha commesso questo scempio per motivi alimentari. Beh sì, poi voglio dire, era una bella gatta da pelare, quindi insomma se si dice quell'impegno, una bella gatta è perché da pelare. Insomma togliere il pelo del gatto appunto non è facile, quindi se riuscivano a tale impegno era perché davvero non c'era da mangiare. Sì, insomma. Infatti è una cosa veramente tragica, veramente triste, principalmente per la violenza e per il nostro amico gatto, chiaramente. Però ovviamente la guerra porta a queste ed altre tragedie. Metterla così in ridere, diciamo, a tempi in cui siamo al sicuro, potrebbe, per così dire, sì, esorcizzare queste tristezze. Anche grazie, se, Vittorio. Diciamo che è molto legata alla cultura, perché se ancora il cane oggi viene mangiato, magari la mucca no, il cavallo. Sì. No, e poi insomma è molto legato alla cultura, però il gatto in quasi tutto il mondo è visto come appunto un animale domestico vicino all'uomo, e quindi non c'è questa usanza di mangiarlo, a parte appunto in paesi asiatici. Sì, e poi soprattutto non è una tradizione, quello appunto del gusto gastronomico da noi nelle nostre latitudini e longitudini, ma è riportare qualcosa di tragico, di fame, di miseria, di tragedia, di violenza. Anche se dicono che assomiglia un po' al coniglio. Che tristezza questa cosa, a me mi inquieta da matti, perché mi lascia un po' così dire, e se mi fregano, hai capito? Mi lascia un po' perplesso. Dicono cosa. Che basta guardare le ossa, se sono un po' ma come siamo raffinati, e sei una vera gourmet. Visto? Non è che apro il tuo freezer e trovo una collezione di topi, conigli. No, devo dire che anzi sto quasi eliminando la carne. Brava, a mano anch'io. Quindi... Brava. Anche se insomma quando ero piccola mi ingozzavano per bene con la carne, perché dovevo crescere, e infatti sono cresciuta, adesso basta. Adesso hai già fatto, stop, sì, hai già avuto le tue scorte alimentari, e quindi direi che possiamo metterci un pochettino a dieta, anche perché nella carne non sempre sono contenute, diciamo così, sostanze che fanno bene, anzi tutt'altro. Ma tornando ai nostri amici gatti e riallacciandoci all'SMS che è arrivato prima dello stacco pubblicitario, è la spiaggetta costa, la sabbietta. Ah, la sabbietta, sì, infatti ci raccontavano appunto che aveva 4 gatti questo nostro ascoltatore, e costa sì, anche perché non è solo la sabbietta, e anche tutto ciò che riguarda il cibo, e quindi certo, tiragraffi, le cure, vai al veterinario, punture su punture. Sì, in effetti diciamo che l'impegno economico comincia a incidere, e appunto a maggior ragione per questo, se facciamo delle scelte o se ci vediamo presi come scelta a sua volta da parte di un felino, pensiamoci bene, perché come dicevo in precedenza non è assolutamente né un gioco né un soprammobile, quindi deve essere seguito come un qualsiasi membro della famiglia, perché diventano di famiglia. Ah sì sì, poi con l'approccio ai bambini diventa i bambini. poveri gatti che vedi i bambini che li tirano le cose. mode, dopo un po' il gatto sopporta perché capiscono che hanno davanti un cucciolo, un mentecatto hanno davanti. Però insomma i bambini invece spesso sono anche entrati a far parte di un progetto che ha aiutato i gatti che invece erano stati abbandonati, erano stati maltrattati e trovavano in difficoltà ad avvicinarsi all'uomo. Invece, chiudendo in queste stanze tanti gatti e i bambini che leggevano a loro delle storie, piano piano ascoltando la voce di questi bambini si abituavano, si riavvicinavano e ricominciavano a trovare quella fiducia che prima era scomparsa. Quindi anche questo è un bel progetto e a quanto pare funziona. Siamo partiti con una cosa molto molto triste, anzi agghiacciante, e siamo arrivati invece a questa notizia che secondo me è bellissima, molto molto bella. Sì, è dolce. È arrivata alle 12:14 minuti, quasi in chiusura del nostro Special Twice. Special Twice che di solito, come di consueto, nella sua playlist non fa mai mancare Gil Scott Heron. A proposito di bei gattoni, potremmo averlo in uno contro uno con Nina Simone, un'altra bella gattona, in una delle nostre prossime puntate dello Special Twice. Una sorta di intervista doppia che un'intervista noi doppia fare. Sì, ci piace nello Special Twice alternare puntate un po' più intense a puntate un po' più leggere. Sì. Quindi alla prossima vi tocca, mi dispiace. Sì, ma no, dai, poi alla fine si ascolta anche musica diversa, musica nuova, ma soprattutto cerchiamo di dare notizie e nozioni che siano così, curiosità, interessanti. A proposito di Gil Scott Heron e il fido Brian Jackson, perché la scelta di questo disco? Innanzitutto perché si chiama Secrets, segreti, e i gatti ne hanno diversi, e perché la copertina appunto ha un bel micione nero. Sì, e allora ci ascoltiamo da Secrets, Madison Avenue, a tra poco. Ascoltatori sui 103.1, molto molto attenti ai gatti, amanti della buona musica, amanti dei bellissimi felini, noi vi ringraziamo tantissimo per la partecipazione. La nostra pagina Facebook ha visto un sacco di like, cara Elisa. Sì, davvero grazie mille. Ricordiamo che siamo qui perché vi vogliamo tanto bene e quindi ci ha fatto piacere anche ricevere tante tante richieste che hanno arricchito assolutamente la nostra playlist, e continuano intanto ad arrivare tanti messaggi. tra cui Andrea che dice: ho la fortuna di un giardino alberato mio e bisogna segnalare la ferocia nella caccia alle cicale dei gatti, nel senso di caccia utile alla pace estiva, visto che le cicale hanno un loro intenso rumore. Fanno festa. Beh sì, insomma, se la formica sale a lavorare, sì, la cicala deve cantare. Siamo un po' cicale io e te. Sì sì, un po' cicale, però anche la formica, c'è, cioè, dietro una formica quando c'è la cicala che canta, perché sì, se no cosa chi, mangia chi la ci mantiene? Chi ci mantiene? Questa è una bella domanda. Intanto ringraziamo Andrea e anche a Massimiliano Giaracca e tutte le persone che hanno partecipato in questo special Twice dedicato ai nostri amici animali. Sì, pensa che a volte sono anche, per quanto furbi, anche un po' sciocchi. Sai che è incredibile come riescano ad arrivare ad altezze vertiginose e poi non riescono più a scendere. Quante, ah, quante volte, i pompieri, stiamo andando a salvare un gattino. Sai che è un servizio ufficiale? Ah, ricordo, a proposito, siccome è stata un'esperienza abbastanza intensa che è capitata lo scorso weekend, di cui sono stato protagonista in aiuto, fortunatamente protagonista secondario, i nostri vicini di casa hanno praticamente visto la loro gattina Minù salire su un pino alto non so quanti metri, non sto scherzando, 12-14, era arrivata al quarto piano, si era messa lì accovacciata, ha iniziato a piangere e ovviamente non riusciva più a scendere. C'è il servizio di soccorso e recupero felino, quindi proprio specializzato, è ufficiale, diciamo che è un servizio che è a disposizione gratuito del cittadino, per cui insomma, a mali estremi, estremi rimedi, li si va a recuperare, perché, infatti, per fortuna tipo nel mio giardino, a parte il pino che non ha avuto mai il coraggio di prendere come avventura, si è sempre arrampicata su magari un pesce, comunque alberi semi alti, quindi magari mettevo su una sedia e cercavo di prenderla, ma non si riusciva a staccare, quindi cioè, inutile che sì, piangi che vuoi scendere, poi non ti fai prendere. Sì, sono spaventati in effetti quando poi c'è stato il recupero della suddetta Minù, questa appena toccato terra è scappata via, tornata il giorno dopo affamata ovviamente, ma questi hanno veramente sette vite. E quando hanno fame vedi come tornano. Lo stavo per dire, quando hanno fame vedi come tornano, finché purtroppo poverini non tornano, capita anche questo. Attenzione in macchina, hanno l'istinto di buttarsi, non fanno come i cani che si mettono col musino a guardare da una parte e dall'altra, questi si buttano, rimangono per così dire anche ipnotizzati dalle luci lontane che vedono dei fari, e è una strage sulle statali e sulle provinciali, quindi un attimo di attenzione perché è una mattanza continua e incredibile. Il motivo di morte più frequente per i gatti è appunto per causa, oppure spesso si mettono sotto le macchine appena parcheggiate perché il motore è caldo, quindi si vanno a piazzare sotto la macchina perché c'è quel calore, solo che poi magari con la coda, se accendi la macchina e parte ti trita, è un attimo, ti trita. Sì in effetti, purtroppo, come sono furbi, come sono svegli, come sono veloci, a volte ti chiedi ma come fanno a essere anche così sciocchi. Però insomma, li abbiamo praticamente tagliati fuori dalla natura e li abbiamo costretti in una società vicina all'uomo, e quindi è normale che poi dici: ma scusa, io dovrei essere a cacciare le cavallette e le lucertole, che infatti spesso ti portano come premio. Sì, e invece tu dai la caccia a me con questa macchina, accidenti. E quindi sì, cerchiamo di umanizzarli, ma non bisogna fare così. Quindi un grande rispetto per i nostri amici felini, e soprattutto perché per le piccole cose noi abbiamo un'attenzione in più. E infatti adesso ci ascoltiamo Agua De Marco. È un misterio profondo. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um breu, é uma ponta. Chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz, da manhã. São as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, ida, ol, ponte, forte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá, de barziza, zá, zá, ziza, a zá na minha, a na dede, pá, na dede. Torniamo in diretta alle 12:25 perché il nostro bel micione ha fatto i suoi consueti 3 o 4 giri su se stesso. Fanno così prima di mettersi accovacciati. Devono trovare la posizione giusta, no? Sì, fanno sì. Alcuni giri che sembra si vogliono mangiare la coda e poi improvvisamente. E io dico: ma scusa, Mao, che è la mia gatta più vecchia, non ti puoi mettere giù subito? No, 10 no, giri. Deve capire bene se. 10 giri, ma metti se giù anche subito. Se l'aria giusta, capito? Oppure spesso quando tu ti siedi sul divano, loro si mettono ovviamente sulle tue gambe, però è il momento giusto in cui ti suona il telefono, tu devi alzare, quella ti rimane attaccata. Io delle volte rimango anche a sedere col gatto, perché insomma sto meglio che il telefono può aspettare rispetto a perdersi un momento di intimità e di condivisione così importante. Ringraziamo anche Gianluca. Sì, ringraziamo Gianluca che ci ha fatto i complimenti per la puntata, e anche a Laura che ci aveva scritto appunto: grazie, complimenti, trasmissione piacevolissima, più fusa per tutti. Sì. Non abbiamo pagato nessuno, sono proprio spontanei. No, assolutamente, per me sono gatti. Sono gatti che ci hanno scritto, sì, ormai sono diventati tecnologici anche loro. Che quando vedono gli smartphone con quella zampina potrebbero davvero fare di tutto. Assolutamente. Ricordiamo che allo Special Twice la prossima puntata sarà di scena la lettura. Sì, tanti libri, perché a noi piace, oltre alla musica, leggere tanti libri. Allora abbiamo pensato di fondere insieme queste due passioni e parlare di tante curiosità e tanti libri, sia del passato che presenti. E tante emozioni dovuti a questa bellissima arte. A proposito di arte, musica e gatti, gatti importanti nella letteratura ce ne sono stati tantissimi, ma di questo parleremo nella prossima puntata dello Special Sì, Twice. Infatti sono già le 12:27, lo stomaco brontola e quindi dobbiamo brontola anche qualcuno qui che ci sta facendo un po' di pressing. Sì, è giusto. Lasciamo la linea quindi al GR alle 12:27, un ultimo ascolto, qualche nota di Bossa per due di Nicola Conte, e noi vi diamo poi appuntamento alla prossima settimana sui 103.1 il venerdì con gli speaker William Piana e Elisa Iacobucci. Avremo lo Special Twice, speciale books, speciale libri, e allora restate con noi con l'informazione sui 103.1. Buon pranzo da Elisa e William, buon appetito!